una grande idea che ancora non si sa, un'idea che cambierà questa città, che ci trasformerà, che ci farà vibrare, un'idea che ancora non si può capire, non si può vedere, ma c'è, è da qualche parte, viene verso di te, non è negli ambienti intellettuali, non è scritta sulle pagine dei giornali, non la puoi comprare con i soldi dei tuoi, non è nelle opere dei nostri eroi, non è nelle chiese, non è nelle stanze, non è sulle sdraio dei villaggi vacanze, non è nei salotti né nei bei locali, non è nelle menti degli industriali. Non è nei messaggi della pubblicità, non è nelle leggi, non è in Parlamento, non è sulle barche a vela spinte dal vento, non è in chi parla tanto di rinnovamento, non è nelle regole di un fuoco spento, non è nelle radio, non è in televisione, non è nelle parole di questa canzone, non è sopra i palchi dei centri sociali, non è nella porpora dei cardinali, non è nelle aule, non è nei cortei, non è nei problemi di lui e di lei. È un'intuizione, puoi trovarla dove c'è una vibrazione, dove c'è un'urgenza, dove c'è calore, dove c'è una gioia nata dal dolore. Tu puoi trovarla là, dove c'è necessità, dove un uomo lotta per la sua libertà, dove uno insegue la sua dignità, nella spazzatura di questa città, nelle zone vaste della realtà, dentro le foreste della società, negli scantinati dell'umanità. Tu puoi trovarla là. Dove c'è bisogno puoi trovarla là, dove può nascere un sogno puoi trovarla là, ma non la puoi guardare, puoi trovarla ma ti devi abbassare, puoi trovarla là e poi devi scavare, scavare, scavare. Tutto nasce dal basso, poi va su. Tutto nasce dal basso, poi va su. Tutto nasce dal basso, poi va su. Tutto nasce dal basso, poi va su. Tutto nasce dal basso, poi va su. Tutto nasce dal basso, poi va su. Tutto nasce dal basso, poi va su. Tutto nasce dal basso. Yo, excuse me. Take a look, take a look, take a look, take a look. Yeah. Take a look, but you will never find it. It's not hidden, but it's there for you to see. But take a look and you will never find it. You got to feel where it's coming from. But be alert, it could come sound like a car bomb, a hard bomb, a human ticking time bomb. But listen in and look within and you will feel it in the one drop. Blood in a gun, lava pop. Don't stop until the bass makes your body rock. One love, cause it's the short shot. Double up two times, X hits the spot. The mystery, next be revealed. Healing the pain with the love that we feel. We don't need no king or no prince or no castle. The power of the heartbeat, the bass, got basso. Tutto nasce dal basso. Tutto nasce dal basso. Tutto nasce dal basso. Hit it! Dal basso. Dal basso. Dal basso. Tutto nasce dal basso, tutto nasce dal basso, tutto nasce dal basso, tutto nasce dal basso, tutto nasce dal basso. Tutto nasce dal basso. Tutto nasce dal basso, the bass, the bass. Tutto nasce dal basso, the bass, the bass. E tutto nasce dal basso, the bass, the bass. Basso Roma. Ci vediamo dopo con Michael. Bless you, man.